Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Lo sbarco sulla luna è stato finito. Quando andate alla fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo che fai? Buongiorno! Buongiorno un cazzo! Runtime Radio! Mi fa un'altra! E buongiorno un cazzo a tutti, benvenuti a questo martedì mattina dove di solito c'è Michela, ma sapete che oramai siamo diventati fluidi, qua ci spostiamo a destra e a sinistra, la fai tu, la faccio io, la faccio io, la fai tu, e quindi questa mattina lo zeppo è dovuto arrivare a me. No vabbè, scherzi a parte, comunque alla fine mi fa quasi comodo tutto sommato di fare questa puntata il martedì anziché il giovedì, perché ci sono diverse cose da dire. Però io dedico il primissimo brano, quello che mettiamo insomma all'inizio, a Fabio, 49 anni, che ha fatto la sua scelta. Qualcuno di voi sicuramente si ricorderà del nome di Marco Cappato, che è quel politico italiano attivista nei confronti ovviamente delle tesi sull'eutanasia, radicale, anche membro di diverse associazioni, è colui che propone ovviamente una sorta di congresso mondiale relativo ovviamente a questa tematica. Lo ricorderete anche perché è salito alle cronache per la morte di DJ Fabo in Svizzera, per il quale ovviamente è stato assolto. E mi sembrava giusto questa mattina aprire ovviamente con questa canzone, con questo brano che in qualche maniera era la prima cosa che mi è venuta in mente relativa alla notizia, perché ovviamente ci dà ovviamente notizia del fatto che Fabio Ridolfi, io penso che vi ricorderete anche di lui, 49enne che per 18 anni è stato praticamente ha vissuto praticamente imprigionato all'interno del suo corpo, completamente paralizzato, senza poter parlare, senza potersi muovere, senza poter avere niente che lo riconducesse a una vita normale. È stata una lunga battaglia e alla fine comunque Cappato ci comunica che Fabio ieri ci ha lasciato, ha fatto la sua scelta ed è stato insomma liberato, tra virgolette, insomma, di questa che era la sua condizione. Noi non sappiamo e non sapremo mai se ora sta meglio rispetto a come stava prima, ma di certo quello che sappiamo è che lui ha potuto essere liberato da questa sua condizione. E l'essere liberati spesso, anche nel essere o non essere, è comunque un atto di scelta, un atto intimo, personale, nel quale in grandi sistemi non possono entrare se non dove ovviamente non c'è chiarezza, dove non c'è limpidezza nella decisione, nel messaggio, non c'è nessun tipo di influenza. E su questo ovviamente se ne può discutere per decenni, in merito, perché è anche giusto che se ne discuta, però un atto di libertà frutto di un atto di disperazione nei confronti di un'esistenza che non è esistenza. Non c'è nessun intervento filosofico, ideologico o religioso, particolarmente questo, che poi diventa un po' una sorta di forma di ipocrisia, no? In qualche maniera, ecco, diciamo che non dovrebbe entrare nel merito. Bisognerebbe sempre pensare in maniera laica, cercando di rispettare un po' tutti quelli che sono ovviamente i vari punti di vista, cercando di capire che tipo di modello di società noi vorremmo, ma un modello che riuscisse a tenere in considerazione le esigenze di tutti, anche laddove potrebbe sembrare impossibile. Però ci sono dei meriti, delle questioni o delle condizioni nelle quali ovviamente il massimo sistema non può intervenire, non deve intervenire. Ribadisco, io non affronto mai questi temi con particolare leggerezza, come quando abbiamo parlato e parleremo ancora dell'aborto. Non significa essere d'accordo con il suicidio, con l'eutanasia, non significa essere d'accordo con l'aborto in sé, in quanto atti. Significa essere d'accordo con quella che è la scelta della persona nei confronti di se stesso e rispetto a quelle che sono le condizioni che l'hanno portato a una determinata situazione, che è sempre una cosa da tenere in considerazione. Guardate quello che sta succedendo adesso negli Stati Uniti, no? Stati Uniti che stanno vivendo forse la più grande crisi democratica della loro storia, una crisi ideale, ideologica, religiosa, morale, etica, che sta facendo veramente, veramente paura, ragazzi. E questo è un po' quello che dobbiamo sempre tenere in considerazione quando parliamo dei grandi sistemi, dei massimi sistemi, delle grandi sovrastrutture che ci circondano e che in qualche maniera ci governano, allo stesso tempo invece degli atti più intimi e importanti e necessari, a volte disperati, riguardo a quella che è la nostra vita rispetto a una vita normale, decente, dignitosa. Perché poi non vogliamo essere la perfezione genetica, non vogliamo correre 100 metri in 7 secondi, non vogliamo saltare 300 metri, non vogliamo essere tutti biondi con gli occhi azzurri, vogliamo avere l'opportunità in generale, dare l'opportunità a tutti coloro che fanno una vita che è al di sotto della dignità umana, di poter fare una scelta. È una scelta, ragazzi, che è un atto di coraggio infinita, perché indipendentemente dalla sofferenza e dallo strazio che uno possa provare nei confronti di una vita non vita, sicuramente andare verso la morte è come fare un salto nel buio, e quindi nessuno sa cosa c'è, cosa non c'è. Io tendo a pensare, purtroppo, che probabilmente tutta quella che è l'esperienza acquisita da parte di un singolo uomo probabilmente si perde, si disperde in quel momento. Però non lo sappiamo e non ci importa in questo specifico caso. Quello che ci importa è che, indipendentemente se si va a stare meglio o peggio, e sicuramente non, dal mio punto di vista, non si va a stare e basta, era la necessità di una persona di liberarsi di uno stato che era intollerabile, insopportabile. E comunque chiudo dicendo che questa grossa ipocrisia nei confronti del voler determinare come una persona alla fine deve vivere, alla fine è sempre una sentenza fatta da persone in condizioni diverse, elevate dalla loro normalità, che guardano verso una situazione di disgrazia dando un giudizio e dando praticamente la propria sentenza riguardo a quello che dovrebbe essere o non essere la loro sorte rispetto a una morale etica che esce fuori da creature invisibili e mitologiche. Indipendentemente dal fatto che uno ci creda o no, non è la religione e non è l'ideologia che debba determinare comunque la sorte di un uomo nei confronti della propria disperazione di se stesso. Sei su Runtime Radio, la talk radio geek. www.runtimeradio.it. Vieni a scoprire la radio geek. Always just out of reach. Blood on the floor, sirens repeat. I've been searching for the courage to face my enemies. When they turn down the lights, I hear my battle symphony. All the world in front of me, if my armor breaks, I'll fuse it back together. Battle symphony, please just don't give up on me. My eyes are wide awake for my battle. That I should retreat, that I'm marching to the rhythm of a lonesome defeat. But the sound of your voice is the pain in reverse. No surrender, no illusions, and for better or worse, when they turn down the lights, I hear my battle symphony. All the world in front of me, if my armor breaks, I'll fuse it back together. Battle symphony, please just don't give up on me. And my eyes are wide awake. Hear my battle symphony. All the world in front of me. If my armor breaks, I'll fuse it back together. Battle symphony. Please just don't give up on me. Battle Symphony, Linkin Park ci accompagna in questa transizione verso il nuovo tema che è legato al primo, perché se abbiamo salutato Fabio che comunque ha fatto la sua scelta, salutiamo anche il fine vita della democrazia che in questo paese praticamente negli ultimi 30 anni ha agonizzato sempre di più fino ad andare a versare le ultime gocce di vita, le ultime gocce di sangue sparse nel terreno grazie a una domenica assolutamente non saprei neanche come definirla, disgraziata, infame, brutta, insomma, va bene, tutto quello che era praticamente il destino già segnato di uno degli elementi più determinanti e più importanti di una, insomma, delle regole della vita democratica, ossia il referendum. Al di là di tutte quelle piccole nazioni che riescono ad agire tramite democrazia diretta, che sappiamo essere insomma una sorta di utopia, laddove c'è uno Stato con un grosso numero di abitanti e dove la democrazia è rappresentativa c'è prevista dalla Costituzione l'intervento della scelta del popolo diretto su questioni fondamentali. In Italia sappiamo che storicamente i referendum erano abrogativi, laddove comunque si costruiva una legge che potesse essere non ben vista dal popolo, penalizzante, troppo moralizzante o qualsiasi altro tipo di motivo, alla fine si interveniva con dei referendum che portavano le persone a votare e a scegliere quello che ovviamente erano quello che era ovviamente la loro posizione rispetto al singolo argomento. Ricordiamo che l'Italia è stato uno dei paesi, l'abbiamo già detto tante volte, ma tendiamo comunque a ricordarlo perché è sempre importante farlo, che fino alla metà insomma degli anni 80, all'inizio degli anni 90, era uno dei paesi con la più grande partecipazione elettorale, con insomma la presenza al voto più importante. Oggi e questo è il segnale che facciamo finta di non vedere, fondamentalmente oggi vota ben al di sotto della percentuale necessaria in una democrazia, per far funzionare una democrazia e soprattutto per esprimere veramente un'opinione politica globale, perché se a votare ci vanno il 20% delle persone è chiaro che quel 20% delle persone nella loro come posso dire posizione politica influenzano molto di più rispetto a quanto sarebbe ovviamente un 90% di persone che vanno a votare con uno spettro molto più ampio di opinioni politiche, considerazioni e anche scelte da quel punto di vista, no? Ma questo è abbastanza ovvio che sia così. Quindi di conseguenza più la democrazia allontana il cittadino dal suo diritto e il suo dovere, che è quello ovviamente di esprimere la propria posizione tramite il voto, che sia il voto rappresentativo dei propri deputati o che sia ovviamente una scelta dal punto di vista referendario, chiaramente più si allontana appunto la gente e più la democrazia muore. Ma la democrazia, nel come la intendevamo noi negli anni 70 e 80, è morta già da un pezzo. Berlusconi ha transitato l'Italia verso questa nuova era, che è un'era fatta di costruzione. Diciamo che dal punto di vista scenografico e scenico noi siamo una democrazia, perché ogni tanto spendiamo dei soldi per mandare la gente a votare, ma poi fondamentalmente non lo siamo più, perché abbiamo diseducato completamente le persone all'esercizio elettorale, abbiamo diseducato le persone al rapporto con la politica, abbiamo diseducato le persone a avere anche un rapporto, non dico di fiducia, ma comunque di convinzione rispetto a quelle che sono le strutture democratiche, compreso ovviamente l'esercizio del referendum. E questo ovviamente è stato costante, non è che il risultato di questa domenica è diciamo un fulmine a ciel sereno, è una costante che è andata progressivamente sempre aumentando fino ad arrivare appunto alle massime conseguenze. Io aggiungo che secondo me in questa tornata elettorale referendaria, che era comunque legata anche ad alcune votazioni amministrative sparse a destra e a manca, c'è anche un elemento ancora più importante secondo me, che è legato al fatto che la gente questa volta l'ha anche... quelle persone che ancora hanno quel senso critico, diciamo, l'hanno proprio legata a una mancanza di volontà di tenere in considerazione le esigenze della gente. Cioè, la politica si è sempre più distaccata, e questo l'abbiamo capito, hanno cominciato a sentire, a far parte comunque tutti di alcuni massimi sistemi, i lobbisti, le cose, gente come Renzi, che ovviamente c'ha dietro varie realtà, vari gruppi ai quali deve tenere conto, e la politica questo è diventata esattamente come è in America, no? Perché comunque anche definanziando la politica perde di valore democratico. e questo sapevamo che sarebbe successo, è successo, e questo ovviamente adesso ne paghiamo le conseguenze. Quindi di conseguenza, se devi essere, se devi fare politica, se vuoi entrare in un meccanismo, se vuoi essere conosciuto, devi fare il giro delle sette ghiere, delle sponsorizzazioni, dei lobbisti, devi seguire, ovviamente sottostare a determinate regole che sono quelle che i tuoi finanziatori ti impongono, e questo diventa la politica. La politica diventa: noi siamo il nostro piccolo club privato, facciamo e decidiamo a prescindere da quello che la gente decide. Quando arriverà la prossima tornata elettorale, a secondo di come saranno fluttuate le variazioni delle percentuali, faremo un nuovo accordo, e ovviamente il presidente del consiglio sarà Tizio invece che Caio, ma saremo sempre noi e staremo qui ovviamente a fare un po' i cazzi nostri, che è veramente quello che succede. Non è demagogia. Non è demagogia. Noi abbiamo visto negli ultimi 15 anni, negli ultimi 10 anni anzi, abbiamo visto susseguirsi governi che si alternavano e si rimischiavano e si ricosavano, che poi alla fine comunque nella buona sostanza sempre quelli erano, no? Ovviamente. Ma questo è anche comprensibile, perché in questa distruzione della democrazia, quindi incapacità delle persone di avere senso critico e soprattutto di avere rispetto verso l'istituzione del voto, è chiaro che la politica in qualche maniera, almeno quelle istituzioni, quelle un po' più illuminate, in qualche maniera devono proteggere la democrazia dalla barbarie. È un po' quello che sta cercando, quello che sta succedendo negli Stati Uniti, no? Perché poi noi nelle prossime, più andremo avanti e più andremo verso proprio l'imbarbarimento totale della politica, che è la cosa che poi alla fine ci dovrebbe preoccupare di più. Quindi che è successo? È successo che, nonostante tutta questa merda, questo tentativo di distaccare la gente dalla politica, che è un atto voluto, non è una cosa così che nasce perché la gente si è stufata e basta, perché, cioè, non è che possiamo dire sempre: ah, la gente è cretina, la gente si è stufata perché non c'è più senso di responsabilità. Sì, ma perché? C'è sempre un perché. E quel perché ovviamente è anche legato al fatto che comunque la politica ha messo in atto questa operazione, che non è complottismo, è un dato di fatto. È un dato di fatto, perché se io ti porto, e qui poi dopo ritorniamo al fatto di dove distingue ovviamente la politica dalla giustizia e via dicendo, che secondo una sana democrazia e secondo una sana costituzione come la nostra, in teoria così dovrebbe essere. Poi dopo ti rendi conto che invece in realtà anche lì c'è sempre un aggancio, soprattutto in una fase come questa dove non c'è più vigilanza, perché la democrazia si basa sulla vigilanza, non c'è più la gente che riesce a capire come dovrebbero funzionare le cose. E non si sorprende neanche più del fatto che certe cose funzionano in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Succede che tu, come cittadino, nonostante questo, ti presenti, vai, raccogli firme perché pensi che ci siano delle tematiche che debbano essere affrontate, o non tanto come referendum, nel senso vincendo tu rendi attivo un certo tipo di pensiero, un certo tipo di legge, ma comunque con quel referendum, andando a votare e arrivando a un determinato risultato, imponi alla politica di fare quel tipo di riflessione e di raggiungere quel tipo di risultato. Ed è per questo che i referendum che sono stati portati sulla cannabis, sul fine vita, non sono stati accettati dalla consulta. Non sono stati accettati, nonostante il raggiungimento delle firme, perché è una scelta politica di non mandare in esercizio democratico un referendum che avrebbe portato dei risultati che la politica non voleva. Perché è chiaro, no? Cioè, nel senso, è proprio fisiologico che sia così. La politica non voleva arrivare a quel tipo di risultato, e allora quei referendum sono stati bocciati, dando un ulteriore colpo a quel senso di partecipazione che c'ha la gente nei confronti dello Stato. Però poi bastano alcuni governatori del centrodestra, berlusconiani del cazzo, tutte persone con problemi chiaramente con la giustizia, per portare al seggio elettorale dei referendum sulla modifica della giustizia. Quindi dovremmo andare poi a fare, cioè, anche delle modifiche costituzionali, la riforma della giustizia, perché perché a loro gli rode il culo che alcune cose non sono ancora in prescrizione, perché a loro no, gli rode il culo del fatto di non riuscire a portare ulteriori persone nella Corte Costituzionale, per tutta una serie di motivi dove la politica vuole mettere mano anche all'interno di quello che è il meccanismo della giustizia. Quindi io, associazione dei cittadini che partecipo e raccolgo centinaia di migliaia di firme per un referendum, no. 3-4 stronzi con problemi sulla giustizia presentano un referendum e il referendum diventa esecutivo. Un referendum che lo sapevamo già in partenza, non è, lo sapevo io, quindi figurate se lo sapevano loro, che non sarebbe mai andato in porto. Allora loro hanno detto: vabbè, ma sti cazzi, proviamoci, perché non si sa mai, ci sono le elezioni amministrative, magari, capito? La gente ci va a votare, no? Magari raggiungiamo il quorum o via dicendo. Ma tutti lo sapevamo che non sarebbe successa sta cosa, lo sapevamo tutti. Ed è la cosa che fa più schifo, perché si tratta dei 300-400 milioni di euro spesi a sbafo per far contenti quattro stronzi. E poi voi vi domandate perché la gente non va più a votare. Voi domandate? Voi dovreste domandare. Nell'epoca dove la politica si fa con il rumore, un uomo, un grande uomo, ha fatto di questa situazione, di questo strumento, diciamo, il suo grande cavallo di battaglia, riuscendo anche a raggiungere un apice, ma sai, come tutti come tutte le cose hanno sempre un arco, no? si arriva all'apice e poi comunque poi alla fine questo arco, questo ciclo si chiude con il declino inevitabile, qualsiasi cosa comunque raggiunge il declino. A maggior ragione il declino si raggiunge quando poi alla fine questa tua politica, che è quella di attirare l'attenzione, non è mai mutata, non è mai cambiata, non si è mai modificata da quel punto di vista. Cioè tu hai continuato perennemente e costantemente a fare solo ed esclusivamente quello, senza mettere in atto nessun tipo di azione politica reale, perché non sei capace, non sei un politico, non sei una persona con delle capacità istituzionali, sei semplicemente uno strillone, sei una persona che sta lì e ovviamente fai quello che puoi fare, che è quello là di fare un umore. E tra l'altro leghiamo poi questo atteggiamento anche a un'egomaniacalità che gli impone la necessità, soprattutto oggi in una società come questa, dove vedete che la gente fa di tutto per ottenere quei 5 minuti di popolarità, di essere virali, di essere al centro dell'attenzione, e questo purtroppo alcuni politici non sono immuni neanche loro a questo tipo di fenomeno, e si arriva ovviamente al ridicolo. Quando c'è un momento in cui tu raggiungi il ridicolo ma i tuoi fan ancora non lo vedono, è insomma abbastanza deprecabile e triste, perché dici: ma come fa, la gente non rendesi conto? Ma purtroppo noi in Italia abbiamo appunto questa necessità di vedere l'uomo minchia, no? Di vedere il ducetto dietro a qualsiasi c'è sempre la speranza di vederne uno, no? Dietro qualsiasi angolo, no? Poi dopo, quando incominci ad essere ancora più ridicolo, tant'è che qualcuno comincia a dire: però insomma sei un po' ridicolo, ma va bene, dai, però dai, sei forte, dai, dai, e poi ti chiamano per nome, no? Perché giustamente oggi non è più non c'è più il senso della personalità politica, no? So amici, so i giocatori di calcio, cioè la stessa cosa: dai Matteo, dai, cross la uscentru. E poi arrivi a quel punto in cui dici: vabbè, mo hai anche un po' rotto il cazzo, no? Diciamo così, no? Perché chiaramente continui a non applicare nessun tipo di azione politica reale, ma semplicemente parli, parli, parli, parli, parli, parli, parli, parli, parli, parli, parli, parli, parli, parli, parli, ovviamente saturando qualsiasi canale possibile e immaginabile. Ovunque c'era la tua faccia che si infilava in qualsiasi tipo di pertugio, in qualsiasi tipo di situazioni, tu sei andato in ogni dove, hai addirittura capito per te stesso che avevi talmente bisogno di tutto questo che saresti stato disposto a vendere il tuo culo a chiunque, ai russi, agli afghani, all'Ayatollah Khomeini, ai cinesi, a chiunque, non ti sarebbe assolutamente importato niente, tant'è che tutto questo ti ha portato anche a un atteggiamento di incoerenza infinito, perché facciamo le ronde, armiamo la gente, poi a me le armi fanno schifo, la pace e via dicendo, fino ovviamente agli ultimi eventi, insomma, dove l'ambasciata russa ci ha tenuto a specificare che questa missione in Russia di Salvini, che nessuno aveva richiesto, alla quale nessuno era stato informato, dei quali i servizi segreti non sapevano niente, vabbè, ma questo poi sarebbe da... lasciamo perdere, andiamo oltre, facciamo finta che non l'ho detta questa cosa, che nessuno ti ha richiesto, insomma, che di cui tu non hai informato assolutamente nessuno, questo viaggio diplomatico che tu andavi per mettere le pezze a quanto era stato ridicolo il nostro ministro Di Maio, che era andato lì a proporgli l'accordo di pace basato sul pensierino degli elementari, sui quali siamo anche d'accordo, perché per carità non è che non siamo d'accordo. E poi alla fine l'ambasciata russa ci ha fatto sapere appunto questo bellissimo viaggio diplomatico indispensabile, per il quale tu sei stato incaricato da te stesso con l'autorità conferita da non si sa chi, lo pagavano loro, cioè lo pagavano i russi, quindi immaginate con che presupposto, no? Cioè, nel senso, i russi pagano un viaggio a Salvini per andare in Russia per parlare con Putin della pace in Ucraina, cioè nel senso. E io penso che sta cosa qualcuno un po' qualche domanda, secondo me qualcuno se l'è fatta in un atto di disperazione costante che oramai dura da mesi, e l'abbiamo visto, insomma, no? E la Lega crolla nonostante ovviamente una grossa battaglia interna alla Lega, che vorrebbe Salvini oramai fuori dalla Lega già da tantissimo tempo, da diverso tempo, insomma. Quindi però lui, giustamente, da egomaniaco qual è, non è che dice: oh, raga, qui fammi mette anche qui in questo caso il piede in due staffe, cerchiamo di trovare una mediazione, perché sennò io fra un po' sparisco e poi dopo che faccio quando sono sparito? Mi tocca farmi i selfie da solo sulla spiaggia, insomma, no? E allora, non avendo trovato ovviamente neanche appunto la capacità di trovare un compromesso in tutto questo, lui si è posto proprio, perché ha detto facciamo gli ultimi, è come invece tu c'hai 100 punti di cazzo durismo, no? Cioè, c'hai 100 punti e lui li ha distribuiti negli anni, e moglie ne erano rimasti 2 o 3 dei punti di cazzo durismo, e se l'è giocati anche dentro la Lega dicendo no, se fa come dico io, perché io qua, capito? E quindi insomma gli ha detto di dare, che stavolta non l'hanno presa bene, e chiaramente chi è che ne ha tratto vantaggio? Zitta, cheta, buona là, che stava lì che spuzzicava con le sue stronzate, io sono cristiana, io sono donna, perché io ti manderei in un posto dove si viveva da cristiana e da donna, brutta maledetta, perché se tu volevi, perché noi che facciamo tanta la differenza con l'Islam, ma io ti manderei in certi posti dove ancora funziona così, se sei donna, sei cristiana, ok? Andiamo a vedere, no, dopo che voi parlate di democrazia, parlate comunque, lei zitta, buona, si è messa lì, si è appizzata e si è risucchiata i voti del povero Salvini, che giustamente oggi si ritrova un po' smutandens. Post-mutandens, che è insomma una modalità particolare nel quale ti ritrovi senza le braghe, diciamo così. L'unica cosa anche che poi ci conforta praticamente come la merda tutto sommato è che comunque il PD continua a rimanere il primo partito in Italia immotivatamente e senza ragione e soprattutto senza meriti, che è ancora la cosa più importante, sebbene forse fra 100 anni, 200 anni ricorderemo questo periodo storico come il fatto che magari il PD comunque ci ha messo la pezza in qualche maniera nelle sue politiche deprecabili, nella sua assoluta funzione di democrazia cristiana, così come l'abbiamo sempre conosciuta, perché in Italia due cose non possono mancare: i fascisti e i democristiani. Sono proprio una cosa che, cioè, se ne levi uno dei due non è più Italia, cioè se trasforma, diventa automaticamente un'altra cosa, insomma. Vabbè, capito, insomma, no, che questo è un periodo un po' strano, che no, poi mi viene da ridere perché lo vedi proprio disperato in faccia, pure ieri nelle dichiarazioni, perché il bavaglio, hanno censurato i referendum. Allora, il mondo ha censurato dei referendum che volevate solo voi, mentre quando la politica ha censurato dei referendum che volevano una gran parte delle persone, no, quello non è bavaglio, quello è un atto di civiltà, perché Dio, padre e famiglia. Che poi io lo voglio ricordare sempre, ragazzi, io un giorno mi piacerebbe incontrarlo Salvini e dire: tu eri un comunista, eri un cazzo di comunista, eri un laico comunista, facevi sempre lo stesso scemo che facevi rumore, facevi casino, facevi il maleducato, quello che te pare. Comunque, vabbè, parlando di scemi, però insomma vi beccate il brano della settimana, ragazzi. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Ciao Runtime Radio, io sono Sti Cazzi, si scrive STEEKATZEE, giusto per puntualizzare. E vorrei presentarvi il mio nuovo rock single, che si chiama Scream in Silence, urla nel silenzio, se volete, insomma. È una canzone scritta qui a Dublino, in Irlanda, dove vivo da quasi 18 anni, e scritta durante la prima pandemia, per cui diciamo va a rappresentare quel urlo che tutti noi abbiamo avuto strozzato nella gola, ma che non usciva perché comunque eravamo confinati in quelle quattro mura. Vi ringrazio moltissimo e stay tuned and rock on. Grazie, ciao. I see the world Ti è piaciuto il branetto, Caruccio? Allora, lui è Sti Cazzi, come giustamente ci tiene insomma a precisare, e vive in Irlanda, è un, insomma, una persona che non conosciamo e che questa sera alle 21 intervisteremo su runtimeradio.it. Tra l'altro, insomma, con un po' di dubbi, cioè nel senso, come lo intervistiamo, con il nome con quale lo conosciamo, oppure lo dobbiamo chiamare veramente Sti Cazzi? Che è insomma un interrogativo che io e Michela, insomma, ci stiamo ponendo da un po' di tempo, anche perché giustamente questa sera è arrivata, insomma. Quindi vi ricordo, questa sera alle 21 su runtimeradio.it, forse anche su Twitch, parleremo con Sti Cazzi e ci racconterà un po', insomma, il suo percorso, la sua carriera politica. La canzone la riascolteremo, così come in teoria l'ascolterete durante il resto della programmazione su runtimeradio.it. qui c'è un audio di Francesco che ho chiesto se va bene ascoltarlo, non mi ha risposto, quindi a mio rischio e pericolo vediamo che dice. Ma guarda, sai che è successo? Che hai sentito a viaggio diplomatico? Lui si è segnato la torta diplomatica e subito si è preparata la panza. Poi gli hanno detto: no, guarda, è un'altra cosa. Hanno detto: allora che cazzo ci paga a fare? Come sei stupido? Vabbè, ho capito la metà delle cose, però ho capito che stava correndo. Fa bene, la mattina bisogna andare a correre, insomma, quindi. Francesco correndo ci ascolta, penso, a volte, fino a che non gli si scarica la batteria. Detto questo, ragazzi, insomma, fondamentalmente le ho dato le mie energie questa mattina, devo dire, perché non avevo tantissime energie, ma le ho date. Comunque, niente, qui su Repubblica parlano del fatto, appunto, dello scivolone di Salvini, e che al Consiglio federale, insomma, i suoi oppositori non si sono presentati, e questa è una cosa interessante. Invece vi vorrei far notare io ho già spiegato, così come mi hanno spiegato alcuni direttori, che le testate online dei giornali non sono la stessa redazione. Questa è una cosa che, se ci pensate, da una parte è un po' inquietante, perché rispondono a una direzione editoriale a parte, specificatamente progettata ovviamente per l'online, quindi con un altro direttore, con altri editori e altri redattori. Questa cosa è abbastanza un po' inquietante, se ci pensate, perché comunque io magari vado a leggere la testata online di un, che ne so, del Messaggero, ad esempio, perché mi piace la conduzione del Messaggero, e invece in realtà poi sono due cose sostanzialmente diverse. Certo, immagino che ci sia una sorta di diciamo di linea guida generale, anche se da quello che ho capito non è assolutamente così. E c'è un articolo bellissimo, insomma, che ci tiene molto, è importante, cioè quell'articolo, oh ragazzi, serve, perché più pubblichi articoli, più inserisci i caratteri all'interno degli articoli, e più c'è possibilità di indicizzazione, c'è possibilità di guadagno, perché poi questi ovviamente lavorano sulla quantità, no? Buttano un sacco di monnezza sulla rete, e prima o poi comunque i clickbait vari, insomma, comunque sponsorizzazioni, soprattutto grazie a quei siti, non quei siti, ma anche quei browser tipo Microsoft Edge, che ti mettono in home page, quando tu apri, praticamente le notizie tra l'altro dei giornali che tu non hai chiesto. Cioè, sì, è vero, diceva, vabbè, ma configuratelo con i giornali che vuoi, sì, è vero, ok, quello che vi pare, però perché tu mi apri la home page già di default con il giornale, il Messaggero, il Mattino di Napoli? Ma chi cazzo se ne incula sti giornali? Ma perché? Comunque, vabbè, il Messaggero fa un bellissimo articolo sulle elezioni amministrative, un articolo che so 15 righe poi fondamentalmente, e aspettate, perché alla fine è sparito il titolo, cioè non c'è il titolo questo articolo. Ah sì, elezioni, primi sindaci eletti nella provincia di Roma, attesa per i comuni più grandi, cioè nel senso che loro, siccome non sapevano che cazzo scrive e non arrivavano praticamente le notizie, loro sono andati a prendere i comuni de merda, quelli con 100-200 abitanti, intanto ci hanno fatto l'articolo sopra, capito? Senza tra l'altro neanche indicare, no, la provenienza politica del sindaco eletto. A Camerata Nuova, che mia moglie sicuramente si ricorderà bene, perché ci abbiamo girato in quelle zone, ci abbiamo girato un film western, quattro voti sono stati determinanti, perché se sono scordati la D, cioè non c'ho il bip, Sbano, mandami il bip per favore, perché così lo metto pure io nei miei pad, così almeno ce l'ho sempre presente, insomma. Però cioè, quattro voti sono stati determinanti per eleggere Settimio Liberati, che ha preso 151 voti, quindi il 48%, contro i 147 di Filippo Vittori. Non sappiamo chi è per quale centrodestra, centrosinistra. A Casape, che io non sapevo neanche esistesse, il primo cittadino eletto è Giuliano Colagrossi, scelto con il 54.20% dei voti, ossia 226, contro Alessandro Ferranti, che si è fermato al 31,18%, 132. Beh, è andata una bella mazzata qua, insomma, quindi... Ma poi questi quando si incontrano per strada al bar, oh, tu hai preso tre voti più di te, capito? Ma tu sei un sozzone, cioè la cosa, la, il piano regolatore, capito? Perché ci avranno pure un piano regolatore pure sti piccoli comuni, no? A Ciciliano, questo lo conosco invece, il sindaco è stato eletto Massimo Calore. Oh, questo sta proprio... Oh, cazzo, questa è la metropoli, ragazzi. Ha 551 voti ed era l'unico candidato. One man, one vote, dicevano in Sudafrica, insomma. Il comune è di 1053 abitanti, cioè nel senso che lui... pure essendo l'unico candidato ha preso solo un terzo dei voti. Beh, complimenti, non so, non deve essere persona gradita. Pensa a quell'altri che non si sono manco presentati. A Territa Tiberina, quindi questo dovrebbe essere da ste parti praticamente, anche qui c'è stata un'unica candidata a sindaco, che era Rita Calofigli, che è stata eletta con 511 voti, però qui non ti dice l'entità del comune. E niente, sono cose importanti da scrivere. Il problema è che quelli che scrivono per la redazione online spesso sono articolisti, ma non giornalisti, pagati 2 euro a cartella. Sì, sì, no, ma io ho detto, l'ha spiegato proprio, anzi, l'hanno spiegato due direttori del giornale, cioè sono proprio due redazioni a parte. Questa è proprio una cosa dove c'è un direttore che probabilmente è l'unico vero giornalista, e poi ci stanno questi quattro scribacchini che spesso e volentieri copiano e incollano, modificando a secondo di quello che il direttore vuole dare come camerata nuova. Posto fighissimo, è vero, Michele, hai ragione. Ti passerò il bip, è bravo, perché insomma, per esempio, sta cosa del determinante è importante. Insomma, la cosa assurda dei piccoli comuni è che lo stipendio del sindaco sono 4 spicci, e quindi chi governa deve anche mantenere il... Vabbè, però bisogna anche ammettere, sì, è vero, hai ragione, questo è vero, però bisogna anche ammettere che per esempio un comune come Frontone, insomma il comune da dove proveniva mia madre, diciamo così, che è il posto dove ci siamo sposati, e Michela, che so, comunque 600-700 abitanti, cioè quanto lavoro da sindaco ci sarà da fare, no? Cioè lì lo stipendio lo prendono gli impiegati comunali, quelli che stanno insomma alle parti del protocollari, le varie cose insomma che stanno a fare. Però il sindaco deve per sé, che cazzo devi da fare? Cioè devi stare lì, decidi, ogni tanto fai telefonate, quando ti chiamano dice c'è da fare, decide se fa il manto stradale, se, cioè, se è fulminata la luce del lampione, cioè che cazzo deve fare il sindaco di un comune di 500 abitanti, che addirittura gli devono dare pure lo stipendio. Insomma, dai, comunque sì, sì, comunque è vero, che in effetti, quindi questo ti dice poi quanto la politica a quei livelli non è professionalizzata, ma è anche vero che è un po' un'anticamera per entrare, diciamo, in un meccanismo un po' più grande, no? Tipo magari la riunione dei piccoli comuni della tua regione, ad esempio, no? Dove cominci a fare contatti, conoscenze e via dicendo, insomma. Vabbè, sono il 56, chi l'avrebbe mai detto? Ho perso tempo un po' con quest'ultimo articolo perché fondamentalmente non avete capito, insomma. Vi voglio bene a tutti, vi ricordo appunto che questa sera alle 20 ritorna Walter Sbano con le orazioni della sera, che probabilmente riprenderà un po' le tematiche anche trattate questa mattina in questo episodio, e alle 21 ci saremo io e Michela con Disordinati Informati Special Night Edition, dove intervisteremo ovviamente Gianluca, perché diciamo Gianluca Primavera, anche detto al secolo Stigli Cazzi, dove parleremo con lui e decideremo anche, insomma, e ascolteremo anche il brano. Non lo so se andremo pure su Twitch, perché poi ci penso, non ho la doppia telecamera, quindi sarebbe un po' complicato, però chi se ne frega. E da domani torna ovviamente il libro game di Leo con il mattino loro in podcast e poi tutto il resto della programmazione. Detto questo, ragazzi, io vi dico, ricordatevi sempre di andare su www.rantemeredio.it, di cliccare su Anche Io e partecipare alla vita attiva di Runtime dando un contributo, una tantum su PayPal oppure una ricorrentemente su Patreon. Questo è un modo per aiutare la radio a sostenersi, perché le spese aumenteranno, perché comunque la piattaforma si sta espandendo e soprattutto perché vedete che siamo diventati bravi, nonostante la distruzione fisica di un server, in meno di 20 ore siamo tornati online gagliardi e tosti come prima. Per il resto vi auguro una buona giornata a tutti, quindi buongiorno un cazzo tranquillamente a tutti quanti, statevi bene e mi raccomando, non lo so, mi raccomando qualsiasi cosa, state bene e buona giornata.